Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e siamo qui come ogni giorno per raccontarvi la cronaca di questa giornata economico-finanziaria che oggi si chiama, da un lato, nuove tensioni sulla Grecia, sta diventando un tormentone, ma l'euro è di nuovo molto debole, 1,33, aumenta quello che è la differenza tra quanto deve offrire la Grecia per avere sottoscritto il suo debito rispetto alla Germania che è il riferimento. Le borse la pigliano non benissimo, non solo per questo motivo. Milano, devo dire che perde meno delle altre borse europee perché c'è ancora l'effetto Fiat in borsa, più 3,2% a 10,75 euro. Fiat soprattutto, Exor in rialzo ma meno, più contenuto, più 0,4%. Ha parlato Sergio Marchionne, numero uno della Fiat, per quello che riguarda il piano strategico, i conti, i numeri e poi soprattutto sullo sfondo l'ipotesi spin-off, come la chiamano quelli che hanno studiato, cioè separazione tra Fiat Auto Chrysler, Fiat Auto e Chrysler da un lato e tutto il resto delle attività Fiat dall'altro. Di questo chiaramente parleremo a lungo, la conferenza stampa è ancora in corso da questo punto di vista, per cui vi daremo degli aggiornamenti durante la puntata, ma avremo un approfondimento alle 18:15. Poi parleremo anche del G20 dei ministri del lavoro che è in corso a Washington. L'Italia è stata anche elogiata per gli strumenti che ha messo a disposizione durante la crisi, cassa integrazione soprattutto e contratti di solidarietà. Parleremo però di mercato del lavoro anche in apertura, perché inizia nel fine settimana l'edizione annuale del Festival Città Impresa. Che cos'è? Un festival in cui il nord-est in senso lato, quindi Trentino, Veneto e Friuli, cerca di raccontarsi, di autorappresentarsi, e quest'anno, al di là del tema, il nord-est ha fatto notizia anche per i casi di suicidi degli imprenditori, per le difficoltà dei piccoli, per un rapporto con le banche che forse è ancora più difficile che in altre aree del paese, proprio perché l'industria è piccola e molto diffusa sul territorio, oltre che fatta di distretti. Sarà un'occasione anche per capire come si sta e se si sta reinventando un modello del nord-est. Quando dico nord-est, vale la pena ricordare che in realtà, secondo molti economisti, quello che è valido per il nord-est è valido anche per l'asse, la dorsale adriatica del paese, quindi Marche, Umbria, fino ad arrivare agli Abruzzi o all'Abruzzo, per cui non stiamo parlando solo di un modello geografico, ma di un modello produttivo. E di questo parleremo in apertura. Poi, dicevo, il vertice dei G20 da Washington, i mercati e la vicenda Fiat e anche la vicenda greca e le tariffe petrolifere. Perché parliamo di tariffe petrolifere, di tariffe della benzina? Perché oggi si è svolto l'incontro al Ministero con il sottosegretario Saglia, più volte nostro ospite, e i petrolieri, sul tema di come si muovono questi prezzi, perché l'Italia paga 4 centesimi in più rispetto alla media europea, come mai tutti noi riceviamo questa strana sensazione, forse un effetto ottico, che ci sia un'estrema sensibilità nei prezzi della benzina al rialzo e un po' meno sensibili invece al ribasso, e anche abbiamo raccontato di oggettivamente numeri che non ci tornavano viste le quotazioni del petrolio. Il petrolio, vi dico subito, che è in calo a $83,27 al barile dopo un aumento delle scorte americane. Dicevamo, per concludere, la borsa italiana che è meglio delle altre borse europee. Le borse europee perdono: Parigi un punto percentuale, Londra allo 0,80, Francoforte meno 0,30, l'Italia perde un meno 0,29%. Perché appunto c'è l'effetto Buzzi-Unice, ma soprattutto Fiat, ma anche Campari e Geox vanno bene. In calo invece, non pesantissimo, alcuni bancari assicurativi legati comunque al risparmio gestito: Azimut meno 2,50, Ubibanca meno 2, Mediolanum meno 2, Mediobanca meno 1,80, Generali meno 1,50, Intesa meno 1,40%, negativa anche Telecom Italia di 1,5%, Tenaris dell'1,4, Finmeccanica dell'1,1, e chiudiamo con le banche, con Popolare Milano e Unicredito che perdono ambedue l'1,1%. Ultima cifra, il 349-238-6666 per i vostri SMS. Passiamo alle altre notizie in breve. Del petrolio abbiamo detto, intanto arrivano le prime stime, dovrebbero essere a questo punto avvicinarsi al dato definitivo, le prime stime sul danno causato alle compagnie aeree dal vulcano islandese. Allora, la IATA ha stimato che insomma un miliardo, siano intorno al 1.260 milioni di euro, una bella mazzata per le compagnie aeree, i danni causati dai 6 giorni di blocco praticamente quasi totale del traffico aereo. Allora, dicevamo dell'incontro che si è svolto al Ministero dello Sviluppo Economico per la riforma della rete di distribuzione dei carburanti. I punti dell'accordo li ha illustrati il sottosegretario dello Sviluppo Economico, appunto con delega all'energia, Stefano Saglia, che ci ripromettiamo di avere il nostro ospite nei prossimi giorni. E allora, l'incontro è terminato circa un'ora fa. Prezzi settimanali della benzina e raddoppio degli impianti self-service entro un anno. Gli petrolieri dicono infatti che praticamente uno dei motivi per cui la benzina non costa un 4 centesimi in più è, rispetto alla media europea, che ci sono troppe poche pompe self-service, troppe pompe ancora di benzina che praticamente sono, non sono self-service in cui si viene serviti, altri dicono troppe pompe, basta. E allora Stefano Saglia, sottosegretario allo sviluppo economico con delega all'energia. Ci diamo un traguardo, il governo, il Ministero dello Sviluppo Economico e gli operatori del settore, un traguardo entro 3 anni per azzerare il cosiddetto stacco tra prezzi italiani e media dei prezzi europei. Diciamo che abbiamo un obiettivo a un anno e un obiettivo a 3 anni. L'obiettivo a un anno è quello innanzitutto di agire sul sistema della selfizzazione degli impianti. Noi siamo convinti che si possa, con la collaborazione degli operatori, raggiungere una quota dell'80% degli impianti dotati di servizio di self-service e iper-self. Oggi siamo attorno al 40%, quindi praticamente è un raddoppio della quota di selfizzazione. Una seconda novità rilevante riguarda il prezzo. Il primo punto di questo protocollo di lavoro è l'introduzione del prezzo settimanale, perché siamo convinti che con il prezzo settimanale i cittadini abbiano meno confusione e possano capire meglio qual è il prezzo che gli viene praticato dalla pompa di benzina e ovviamente fare i confronti che magari di giorno in giorno o a volte anche più volte al giorno è difficile fare, perché se il prezzo cambia in continuazione ovviamente. Quindi il prezzo settimanale può essere diminuito nel corso della settimana, ma non può essere aumentato. Per quanto riguarda la riduzione dei punti vendita, attiveremo, o meglio utilizzeremo, il fondo che già esiste alimentato dagli operatori e dalle compagnie per garantire gli indennizzi, quindi ovviamente non ci sono degli espropri proletari. Le chiusure avverranno indennizzando coloro che chiudono con una cifra che consentirà loro ovviamente di non dover sopportare spese di bonifica e quant'altro. L'obiettivo è quello di arrivare entro 3 anni ad aver ridotto gli attuali circa 24.000 impianti ad una quota attorno ai 15-16.000 impianti. In effetti il nostro paese, quanto a pompe di benzina, ne ha una media più alta rispetto al resto d'Europa. È un tema che abbiamo trattato anche negli anni scorsi. Appunto, avete sentito il sottosegretario Saglia dire si scenderà intorno ai 14.000-15.000 stazioni di servizio. I prezzi settimanali, per avere anche maggior chiarezza e obiettivamente non avere sempre questo balletto di cifre con la prima compagnia che parte a rincarare le altre a seguito. Veramente difficile anche per noi fare informazioni in questo modo. E il raddoppio del self-service, così le compagnie petrolifere non potranno più dire che in Italia il problema della benzina, del costo, la differenza della benzina è dovuto a questo sistema troppo frammentato. E comunque, tra l'altro, il presidente dell'Unione Petrolifera, mi fermo un secondo perché vedo un flash d'agenzia, Allora, è arrivata la notizia sulla Fiat, poi riprendiamo anche, lo ha detto qualche istante fa, il numero uno della Fiat, Sergio Marchionne, lo spin-off, ossia la divisione, lo scorporo delle attività auto di Fiat dal resto delle attività del gruppo, arriverà nel giro di 6 mesi. Ok, quindi prima della fine dell'anno la Fiat si dividerà in due, da una parte Fiat Auto e Chrysler, dall'altra il resto del gruppo, ecco perché poi oggi sale Fiat e Exor invece raffredda. Leggo assieme a voi, Sergio Marchionne ha detto che inizierà una nuova storia della Fiat con due aziende dotate di massima autonomia per svilupparsi, per cui la Fiat, il gruppo Fiat Auto, come l'abbiamo sempre conosciuto, fra 6 mesi non ci sarà più. Ci sarà un nuovo gruppo che è il sesto produttore al mondo di auto, che si chiamerà appunto Fiat Auto e Fiat e Chrysler. Comunque, dicevamo dei petrolieri, poi torniamo alla Fiat. Pasquale De Vita, nostro ospite più di una volta. Devo dire, io apprezzo sempre la sua capacità anche di accettare le nostre critiche, non ho cambiato idea. Presidente dell'Unione Petrolifera Italiana ha detto che presto si farà chiarezza sulla questione della doppia velocità dei prezzi, cioè quella che ricordavo prima, molto veloci a salire, molto molto lenti a scendere. Si è stabilito, e questo noi fa estremamente piacere, che a cura del Ministero si farà un'analisi della famosa doppia velocità dei prezzi, quindi si corre a salire, si va piano a scendere. Noi l'abbiamo sostenuta, la continuiamo a sostenere, daremo il nostro contributo, ma preferiremmo che il Ministero la facesse autonomamente, perché siamo convinti che nella chiarezza anche la posizione delle aziende riuscirà molto meglio di quanto non sia in questo momento. Evviva, evviva, lo diciamo al Presidente dell'Unione Petrolifera Italiana, suoniamo le nostre campane dopo 5 anni che cerchiamo di avere risposta. L'Unione Petrolifera Italiana dice che appunto farà chiarezza sulla doppia velocità nei prezzi della benzina e noi tutti siamo felici di questo. Passiamo adesso a altre notizie di questa giornata economico-finanziaria. Allora, per quello che riguarda le altre notizie di questa giornata economico-finanziaria, c'è stato un errore nella base, ripartiamo con la nostra headlines, un piccolo problema, grazie. Allora, Morgan Stanley, l'utile è 1.800 milioni di dollari, sopra le stime anche per Morgan Stanley dopo il caso di ieri di Goldman Sachs, una perdita registrata a Morgan Stanley nello stesso periodo di un anno prima, che era di 177 milioni di dollari, quest'anno 1.800 milioni di dollari. Wells Fargo invece cala l'utile del 16% a 2 miliardi e mezzo di dollari, ma superiore alle stime. Ancora due notizie in breve, la Grecia, ne parleremo più avanti, comunque come ricordavamo è salito ai massimi il premio sul rendimento delle obbligazioni, è schizzato a 500 punti base la differenza tra quanto rende un'obbligazione tedesca e quanto rende un'obbligazione greca, e sale al massimo anche il rischio debito su Atene, quello misurato dai credit default swaps, da chi assicura gli investimenti attraverso questi contratti. E sono balzati di 25 punti base, nuovo record a 488 punti. E poi una notizia giunta poco fa riguarda l'Italia, l'antitrust, il presidente dell'antitrust Antonio Catricalà ha annunciato che sono allarmanti i risultati dell'indagine dell'antitrust sui costi trimestrali delle commissioni, con le nuove modifiche al massimo scoperto. Insomma, questa è una vicenda incredibile, perché la legge ha obbligato le banche a eliminare il massimo scoperto, che è rientrato dalla finestra. Dice l'antitrust, non lo diciamo noi, presentano i costi trimestrali delle commissioni aumenti tra il 37 e il 1600%, questo nel caso dei 5 gruppi bancari esaminati dall'antitrust. tant'è che appunto l'antitrust parla di poca concorrenza nel sistema bancario. Siamo vicini, lo dice Catricalà, non lo diciamo noi, a un ambiente oligopolistico, quindi a un oligopolio, pochi soggetti che controllano tutto il mercato. Serve un tetto sui costi delle commissioni a carico dei titolari di conto corrente che vanno in rosso. Allora, di Fiat parleremo più avanti, e appunto la notizia comunque ve l'abbiamo data in diretta, l'ha detto poco fa Sergio Marchionne, lo spin-off dell'auto arriverà entro 6 mesi. E adesso parliamo del primo tema, il Festival delle Città Imprese, ma in realtà a noi interessa parlare del Nord-Est come modello produttivo, e quindi significa tutta quell'Italia fatta di distretti industriali, di piccoli imprenditori, di un'assenza quasi strutturale storica di grandi gruppi che facciano da leader, da traino, e di una sofferenza spesso, lo dico con massimo rispetto per gli altri, ma spesso anche silenziosa, perché chiaramente fanno più notizia, questa forse è anche colpa nostra, i dipendenti di Termini Imerese, i 1600 dipendenti di Termini Imerese, che non le migliaia di dipendenti che perdono il lavoro in centinaia di piccole aziende. E allora, fermo restando il numero per i vostri messaggi, 349-238-6666, parliamo di Nord-Est. Allora, partirà infatti domani, si apre oggi come presentazione, ma domani entrerà nel vivo l'edizione 2010 del Festival delle Città d'Impresa, che è il modo in cui il Nord-Est cerca di raccontare se stesso. 5 giorni di convegni tra Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Trentino, tantissimi comuni coinvolti: Schio, Rovereto, Montebelluna, Asolo, Valdagno, Conegliano, Vittorio Veneto, Maniago, anche Venezia, Verona, Padova e Trieste. 360 relatori, premi Nobel, economisti, politici, studiosi, imprenditori, ma anche urbanisti, filosofi, artisti, che ragioneranno su un tema. Il tema è: la cultura ci fa ricchi. Daniele Marini, direttore generale della Fondazione Nord-Est e quindi gli organizzatori del festival, buonasera. Buonasera a voi. Allora, domanda subito facile, ma con questa crisi cosa vi è venuto in mente di parlare di cultura in una terra che sta soffrendo tantissimo, assieme ad altre, ci mancherebbe? Ma, può apparire paradossale, però in realtà è uno degli strumenti, se non il principale, per la via di uscita dalla crisi. Cioè, quello che ci sta dimostrando e quello che appunto dimostra questa crisi è che non è più sufficiente produrre dei prodotti, dei semplici prodotti, ma bisogna innestare idee in questi prodotti stessi, cosa che peraltro le imprese più avvedute già da tempo avevano cominciato a inserire, quella che viene chiamata la parte immateriale della produzione. Però è un intero sistema, non possono essere soltanto le imprese che fanno questo, ma è tutto il sistema sociale ed economico e istituzionale che deve progressivamente investire nelle idee e quindi nella cultura in senso lato. È la chiave per riprendere il cammino dello sviluppo. Allora, io penso che ci sia anche un altro problema. Quando dico Nord-Est, ripeto, parliamo di un modello, quindi ci scrivono alcuni ascoltatori al 349-238-6666. È vero, anche la dorsale adriatica, Marini, ha delle caratteristiche molto simili a quelle del Nord-Est. Marche, Abruzzi, diciamo prima, Umbria, quindi distretti industriali, piccola impresa, forse anche dei limiti ancora più forti dal punto di vista geografico, assenza di grandi gruppi, rapporto con le banche, diciamo così, quantomeno difficile, se non difficilissimo. Però io dico una cosa, in questo momento, a mio avviso, il problema è anche mediatico nel Nord-Est, cioè stiamo assistendo a morti purtroppo vere, penso ai suicidi degli imprenditori, ma anche a morti figurate, quindi aziende che chiudono, dipendenti che vengono messi in cassa integrazione, dipendenti che perdono il lavoro, ma non fa notizia. Cioè fa notizia Termini Imerese, fa notizia l'Alcoa, col massimo rispetto, ce ne siamo sempre occupati, fa notizia la Glaxo, perché appunto ha grandi numeri. Non vorrei che vi fosse una difficoltà del Nord-Est anche a autorappresentarsi, che storicamente sappiamo è stato un puntone d'Achille. Troppo lavoro, testa china, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, incapacità di raccontarsi. Non c'è un film che racconti il miracolo del Nord-Est, non c'è un libro che racconti in maniera seria il miracolo del Nord-Est, cioè non c'è un gigante, un Bundenbrock, nulla che racconti quello che è successo in una terra che è cambiata in 20 anni come mai altra parte d'Europa. Marini. Allora, da un lato sì, dall'altro... Visto che voi ci provate, dico. Sì, se mi è consentito, sono 10 anni che come Fondazione Nord-Est, che peraltro è evoluta, i soci fondatori sono le associazioni degli industriali e le camere di commercio di tutte e tre le regioni, peraltro caso unico in Italia, se mi è consentito, sono 10 anni che noi realizziamo un rapporto annuale sulle trasformazioni della società e dell'economia dell'area, quindi il tentativo di raccontarlo c'è e credo diciamo con esiti anche positivi, se poi il Nord-Est è diventato l'icona che è anche in questi giorni. Purtroppo quello che è vero è che da un punto di vista della comunicazione, cioè dei media, non c'è una voce unitaria così come c'è per esempio per la Lombardia o per il Piemonte, dove dei quotidiani nazionali, dei quotidiani di Milano e di Torino sono anche quotidiani nazionali. Questo però è nello stesso tempo il limite, il pregio di una realtà policentrica e diffusa come esattamente è il Nord-Est. Peraltro concordo anche con gli ascoltatori dove dicono che uno stesso modello di sviluppo o analogo, insomma, si ha in tutta la fascia pedemontana del nord Italia, cioè sì, dove sì, c'è una presenza forte di piccola e media impresa, per scendere fino alla dorsale adriatica e lambire quasi la Puglia, quindi sono problemi, diciamo così, comuni a queste aree, tant'è che quando noi domandiamo di rappresentare agli imprenditori del nord-est quali sono le aree più simili a loro, sono esattamente queste che abbiamo detto. Ecco, Marini, ma questa difficoltà nel raccontarsi anche durante la crisi finanziaria economica non dipende, io riconosco il vostro sforzo, lei è ospite nostro da anni quando parliamo di questi temi, però non dipende anche dalla struttura d'impresa, cioè quando le imprese sono così piccole, purtroppo diciamo 1.000 dipendenti persi da 1.000 imprese fanno molto meno notizie di 1.000 dipendenti persi da un'impresa. Ah, assolutamente, assolutamente sì, è il problema di una struttura imprenditoriale appunto micro, diffusa, per cui peraltro però gli stessi mezzi di comunicazione si accorgono di questa realtà solo quando ci sono eventi eclatanti, quindi se ne accorgono quando prima il Nord-Est era la locomotiva d'Italia perché appunto tutti i chini al lavoro e grande produzione, e poi se ne dimenticano, per salvo accorgersene quando ci sono gli imprenditori che ahimè si suicidano. E quindi non c'è mai come dire una sorta di via di mezzo di narrazione normale di un Nord-Est che in realtà è normale e che sta vivendo in questi anni recenti, ma aveva qua già cominciato negli anni precedenti a fare una vera e propria metamorfosi del proprio sistema produttivo. Ecco, lì arriviamo dopo questa scheda che ci racconta la difficoltà del territorio, e ripeto, vale a livello di paradigma, Dio che parola difficile, insomma per tutti per altri territori di questo paese, fatti salve le zone in cui c'è la grande impresa, ma appunto la dorsale pedemontana, parte del Piemonte, soprattutto Marche, Abruzzi e fino alla Puglia, e le difficoltà in questo momento, e poi vediamo anche che tipo di metamorfosi è in atto, come si sta reinventando un modello produttivo, se sta seguendo l'esempio citato alcuni giorni fa di una città che ha il confine tra Lombardia e Veneto, che è Brescia, che cerca di reinventarsi un ruolo più nei servizi e meno nella metallurgia, nell'acciaio, nell'industria pesante. È subdola e silenziosa la variante della crisi mondiale che stringe il nord-est del paese. Silenziosa perché nel regno delle piccole e micro imprese le chiusure fanno meno rumore, subdola perché gli imprenditori spesso si trovano ad affrontarla in solitudine senza il sostegno delle banche o aiuti di sistema. Una situazione che trova la sua testimonianza più tragica nei 18 suicidi di imprenditori che si contano dall'inizio della crisi. Un crollo dell'export di oltre il 20%, cali del fatturato che in alcuni settori sfiorano il 50% e un generalizzato assottigliamento del portafoglio ordini hanno sinora causato la chiusura di quasi 5.000 aziende. Chi ha resistito vive alla giornata. Un'impresa su due afferma di lavorare solo sul brevissimo periodo e di fare progetti al massimo ad un mese. I contraccolpi sulla ricchezza dell'area sono fotografati dall'andamento PIL pro capite fino a prima della crisi, ampiamente al di sopra della media dell'area euro e oggi leggermente al di sotto. Eppure, anche in mezzo alla bufera, il nord-est è riuscito in qualche modo a fare quadrato. La disoccupazione cresce anche qui, ma due imprese su tre hanno scelto di mantenere gli organici invariati. Inoltre, come sottolineano molti osservatori, con l'intraprendenza scritta nel loro DNA, le imprese del Nord-Est hanno tutte le carte in regola per riuscire a riorganizzarsi e cogliere le opportunità della ripresa. A scommetterci è anche il piccolo esercito di laureati del Mezzogiorno che cercano l'America non al di là dell'Atlantico, ma appena oltre la sponda del Po. Ogni anno 20.000 giovani lasciano le regioni del sud alla ricerca di un impiego. Di questi però, appena uno su 10 abbandona l'Italia. Tutti gli altri scelgono il nord e il nord-est del paese. Allora, Marini, qualche elemento anche di capacità di attrarre la ricerca dello Siemens è di oggi, quella che cita 20.000 giovani che lasciano le regioni del sud per un impiego al nord contro i 2.000 che se ne vanno all'estero, però insomma crollo dell'export del 20%, meno 50% in altri settori. Il meteo e la pubblicità, poi vorrei sapere da lei come si sta reinventando il nord-est e come questo cercherà di emergere nella vostra, nel tentativo anche di utilizzare la cultura e la candidatura del nord-est a capitale europea della cultura nel 2019. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, adesso arriviamo alla borsa. Volete sapere già di Fiat, dopo la conferma che entro 6 mesi il gruppo si dividerà in due, da una parte auto con Chrysler, dall'altra il resto del gruppo. Fiat più 1,7%, Exor però negativa di 0,3%, la borsa ha chiuso con un meno 0,97%, e peggior titolo Azimut, ma anche Mediolanum e UbiBank, miglior titolo Buzzi, Unicem e poi Fiat. Vorrei concludere però con Daniele Marini, appunto, nel presentare queste giornate del Festival della Città Impresa, e ripeto le località, riguardano Trentino, Veneto e Friuli, terza edizione, 5 giorni di convegni, che come sta cercando di reinventarsi il Nord-Est? Abbiamo visto inchieste su Brescia che spiegavano come a Brescia stia cercando di reinventarsi fornendo servizi, e anche andando nell'information technology meno sulla metallurgia, e soprattutto che ruolo può avere la candidatura del nord-est a capitale culturale in questo tentativo di ridefinirsi? Sì, allora, da un lato le imprese, ripeto, già da anni si erano incamminate in un percorso di trasformazione da un punto di vista e produttivo, proprio per la competizione internazionale, perché non dobbiamo dimenticare che al di là del dato sulla crisi dell'export, le imprese del nord-est sono quelle in Italia più vocate ai rapporti con i mercati esteri, e quindi certo, questo dice anche del perché ne hanno risentito di più, però diciamo così, si stanno riposizionando sul mercato, inserendo innovazioni sia di carattere tecnologico ma anche di brand, di comunicazione, di mercato e così via, proprio per spostare verso l'alto il proprio il valore aggiunto dei propri prodotti. Facendo questo, quindi innescano un processo, diciamo così, culturale in senso lato del termine. Allora, questa però è un'operazione che non può essere fatta soltanto dal sistema imprenditoriale, ma serve che sia tutto il sistema socio-economico e istituzionale a farlo. Anche le banche? Allora, anche le banche, certamente. Mm-hmm. Allora, questo vuol dire che ipotizzare una candidatura del nord-est, quindi del policentrismo a capitale della cultura europea, cosa significa? Significa provare intanto ad attrarre investimenti per mettere a regime quell'insieme di opere infrastrutturali e in senso fisico e meno, ma anche di tipo culturale, in modo tale da far sì che questo diventi sempre di più un sistema metropolitano intelligente. Cioè, visto che uno dei problemi di quest'area è di avere... Di non avere una metropoli, diciamo. Diciamo che ha una metropoli inconsapevole, in realtà. Però, diversamente dalle altre aree, come Milano, come la Lombardia, piuttosto che il Piemonte, dove sono delle capitali vere e proprie, nel nord-est queste capitali non ci sono. Proprio perché sono... ciascuna delle città, più piccole o più grandi, si autoconsidera una capitale. Allora, siccome da questo dibattito è difficile sortirne, perché ciascuno ha le proprie ragioni, bisogna cominciare a ragionare in termini di governance metropolitana intelligente. Cioè, voi volete proporre come capitale, ed è un'operazione culturalmente anche molto interessante, una non capitale, un non luogo, direbbe Marco Gé, cioè una capitale diffusa, fatta di tante città medie di provincia, che però formano una tale rete da sembrare un'enorme metropoli, diciamo, sui generis. E vedere se questo poi può passare. Marini, siccome ho molti temi oggi, devo chiudere con lei, però una domanda ce l'ho ancora. Sta passando nel nord-est, quindi nella dorsale adriatica, nella parte pedemontana del paese, il messaggio, io penso quello che ci disse il presidente degli industriali di Vicenza, Zuccato, insomma, che dopo questa crisi è inutile raccontarsi tante balle, nulla tornerà come prima. E quindi il messaggio che non puoi continuare a avere solo piccole dimensioni, alla logica del falso tutto mi, cioè, perché poi possiamo ragionare quanto vogliamo, ma se poi uno pensa di poter mantenere il suo capannone, la sua azienda familiare, magari con i bilanci gestiti così, un po' in maniera artigianale, ad essere buoni, forse non ha capito che questa crisi non ce la siamo inventata noi perché non sappiamo di che cosa parlare a Focus Economia. Che ci sia una risposta positiva, ovviamente con le resistenze culturali, soprattutto fra le generazioni più anziane, perché non dobbiamo dimenticare che lo spirito imprenditoriale, non solo del nord-est peraltro, è assolutamente individualista, però con ricerca di forme varie, che non sono soltanto acquisizioni piuttosto che fusioni, ma in termini di partnership, in termini di accordi di produzione e via dicendo, le imprese stanno capendo, gli imprenditori, soprattutto ovviamente quelli più piccoli, stanno capendo che da questa fase si esce soltanto se si sta insieme, quindi non più ognuno per sé fa per tre, come dice l'antico adagio, ma uniti si fa la forza, e soprattutto oggi quello che è necessario è la rapidità di queste decisioni, la rapidità di queste trasformazioni. Allora, in bocca al lupo a Daniele Marini e a tutta la Fondazione Nord-Est per questo festival che vedrà la presenza di banchieri, penso Alessandro Profumo, imprenditori, scrittori, filosofi, Corona, Paolini, ministri, ci sarà anche Romani, ci sono anche Romani Sacconi, insomma, mondo di diversi mondi a confronto nel tentativo di raccontare l'economia delle idee, i fattori competitivi, i nuovi luoghi della metropoli nord-est, insomma ognuno di questi paesi che ho ricordato, Schio, Vittorio Veneto, Montebelluno, Rovereto, ha un tema dedicato. In bocca al lupo veramente, perché la narrazione, sapersi raccontare, è fondamentale per capire poi dove si va. Non esiste futuro senza passato, e con questa frase un po' retorica chiudiamo e ringraziamo Daniele Marini, direttore della Fondazione Nord-Est. Grazie a lei. Eh sì, avete ragione nel ricordare un libro che portammo in trasmissione qualche anno fa, si chiama L'età dell'oro, un bellissimo libro, casa editrice, se non ricordo male, la Terza, Bompiani, comunque verifichiamo, e raccontava un futuro post-industriale a Prato, e c'è una frase bellissima che diceva, insomma, l'autore si chiama Nesi, Edoardo Nesi, anche qui vado a memoria, e diceva, insomma, così come non abbiamo capito noi pratesi i motivi di tanta ricchezza, non capimmo nemmeno i motivi dell'impoverimento. Va bene, la borsa meno 1% Milano, meno 0,54% Francoforte, meno 1,22% Parigi, meno 1% Londra, l'America adesso girato in negativo, meno 0,12%, i titoli subito: Buzzi Unicem più 3%, Fiat più 1,70%, Campari più 1,40%, Luxottica più 1,30%, Estima Microelectronics più 1%, Geox più 0,80%, in negativo Azimut meno 2,44%, Mediolanum meno 2,20, UbiBanca meno 2,20, Mediobanca meno 2%, Intesa meno 1,80, Generali meno 1,5, come Tenaris, Unicredit meno 1,3, come Finmeccanica e la Popolare di Milano, l'1,2 lo perde Telecom e Fondiaria, l'1% Saipem. Dopo il traffico, i titoli tranne Fiat, di cui parleremo più avanti. Allora, diciamo dei titoli. Di Fiat parliamo ampiamente dopo, è arrivata la conferma dello spin-off, quindi della separazione auto dal resto del gruppo, è arrivata in diretta entro 6 mesi. Salterei Fiat ed Exor, quindi, in questo momento, con Paolo Paronetto, Radio Colle sulle 24 ore. Buonasera. Buonasera a tutti. Buzzi, Unicem e poi Pirelli, perché oggi era il giorno dell'assemblea e leggeremo anche alcune dichiarazioni di Marco Tronchetti. Provera. Sì, Buzzi, Unicem è stato il miglior titolo nel paniere principale, ha guadagnato il 3,09%, salendo oltre quota 11 euro per azione, per la precisione a 11,02. Gli investitori hanno scommesso su un titolo che a Piazza Affari rimane molto sottovalutato, soprattutto rispetto ai competitor del settore. Alcuni analisti di recente notavano che il titolo viene scambiato con uno sconto significativo, circa del 40%. Rispetto al valore di Libro, uno sconto che secondo molti osservatori non è adeguato al valore della società. Sono quindi arrivate le promozioni anche da parte di alcuni analisti, e di oggi quella di ING che consiglia di comprare il titolo, e quindi molti investitori hanno preso posizione su Buzzi. E per quanto riguarda Pirelli, oggi... Sì, ecco, fammi leggere prima le dichiarazioni di Marco Tronchetti Provera, il quale ha detto che prima di tutto bisognerà fare la separazione tra Pirelli e Pirelli Real Estate, Pirelli quindi immobiliare. A quel punto Pirelli valuterà se fondere Pirelli Tire, che è la parte che produce appunto le gomme. Ancora, il raggruppamento delle azioni lo stiamo valutando, ha aggiunto Marco Tronchetti Provera, è uno dei temi che abbiamo sul tavolo. Il titolo. E proprio queste sono le cose principali che oggi hanno tenuto banco. Oggi c'è stata l'assemblea sia di Pirelli che dell'azionista di riferimento Camfin. Pirelli oggi ha chiuso in calo dello 0,66% e sono stati soprattutto realizzati, dato che ieri il titolo aveva guadagnato oltre il 4%, mentre Camfin ha chiuso esattamente invariata. Tra le altre dichiarazioni ce n'è una appena arrivata, che è quella Tronchetti ha detto anche che in futuro Camfin potrebbe valorizzare la sua quota in Pirelli Re, dopo ovviamente la scissione, e quindi Camfin potrebbe uscire definitivamente dal business immobiliare. Allora, che è successo a Eutelia, miglior titolo in assoluto, più 11,7%? Sì, esattamente, Eutelia oggi buone notizie, all'indomani della diffusione dei conti e del piano industriale 2010-2012 aggiornato rispetto alle precedenti stime. Ricordiamo che il CDA aveva dovuto posticipare l'ok ai risultati di bilancio, mentre oggi sono arrivate le rassicurazioni, dato che il board comunica di avere la ragionevole certezza che la società potrà continuare l'esistenza operativa in un periodo di almeno 12 mesi, quindi il titolo ne ha approfittato. Ha chiuso in rialzo dell'11,7%, sì, risultando il migliore dell'intero listino milanese. Un'ultima battuta sulle banche, oggi tutte in sofferenza, anche se non pesante. Banche, risparmio gestito, Azimut, Mediolanum meno 2,4, UbiBanca meno 2,2, Mediobanca meno 2, Intesa meno 1,80, Generali meno 1,60, Unicredit meno 1,30, Popolare di Milano meno 1,30 anch'essa. Ricordiamo che di recente il settore era stato premiato dopo i risultati di alcune big statunitensi, oggi sono quindi prevalsi i realizzi e i timori legati al fatto che, secondo le recenti indiscrezioni, il Fondo Monetario Internazionale si appresta a proporre al G20 l'introduzione di due tipi di tasse straordinarie sulle banche per coprire i costi dei salvataggi che sono stati resi necessari negli ultimi mesi, ovviamente una notizia che penalizza tutto il comparto, che oggi ha perso terreno in tutti i listini europei. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Corri, Sole 24 Ore. Di Fiat ci occuperemo dopo. Adesso riprendiamo in qualche modo il filo con cui abbiamo aperto, il Nord-Est da un lato, e quindi temi anche legati all'occupazione, che chiaramente non riguarda solo il Nord-Est, perché è in corso da ieri a Washington il vertice dei G20, dei ministri del lavoro dei 20 paesi più industrializzati in Europa. Al mondo, non in Europa. Eh sì, perché si sta parlando di dati su disoccupazione, misure anche per traghettare l'economia dalla fase post-crisi alla fase di ripresa vera e propria, per cui da questo punto di vista i ministri del lavoro sono riuniti, sono arrivati anche, va detto, degli elogi all'Italia, per cui su questo ci fa piacere vedere che, insomma, la struttura di welfare italiana, quella che vede soprattutto lo strumento della cassa integrazione come uno degli strumenti principali per sostenere l'occupazione, è stata elogiata a livello complessivo, mentre tra l'altro ricordate di ieri la notizia che secondo Standard & Poor's la disoccupazione in Italia è più alta, è al 10%. Allora siamo in collegamento, lo ringraziamo perché sono ancora in corso di riunioni con il ministro al welfare italiano Maurizio Sacconi. Buonasera ministro. Sì, buonasera. Allora grazie per la disponibilità, cerco di tenere il meno possibile. Dicevo di questo elogio che è arrivato anche alla struttura italiana del welfare, nel caso particolare contratti di solidarietà e cassa integrazione. Il summit sociale, che peraltro succede a quello di Roma, che fu il primo organizzato per analizzare le conseguenze sulle persone della grande crisi economica e finanziaria globale, questo summit, dicevo, si è occupato sia dei modi con cui proteggere il reddito di coloro che sono costretti all'inattività, e a questo proposito ha apprezzato le esperienze dell'Italia e della Germania, che sono state molto simili e non a caso si sono riverberate sul contenimento della disoccupazione, cioè strumenti come la cassa integrazione o i contratti di solidarietà in Italia, oppure come il cosiddetto Kurzarbeit, il lavoro corto in Germania, hanno consentito di proteggere il reddito delle persone mantenendole occupate, mantenendole nel rapporto di lavoro anche in presenza di una caduta della domanda, della produzione e quindi delle ore lavorate. Però poi abbiamo discusso ovviamente anche molto di come accompagnare il sostegno al reddito con l'investimento nelle competenze. Ecco ministro, che quadro, per quello che ci può dire, sta emergendo dai vari suoi colleghi sulla situazione occupazionale? Ieri abbiamo visto Standard & Poor's dire beh, l'Italia in realtà, se si calcola la cassa integrazione, è al 10%, a nostro avviso ha ragione l'Istat nel dire no, attenzione, la disoccupazione è un'altra cosa, la cassa integrazione è una forma di integrazione appunto sul guadagno. Infatti è una stronzata, perché non riesco a definirla diversamente, perché tutto il summit mondiale si è occupato di come proteggere il rapporto di lavoro anche attraverso forme come la cassa integrazione o come il Kurzarbeit, come dicevo, perché fa la differenza se una persona è disoccupata o è cassa integrata, certo. Fa una grossa differenza, non solo per il reddito che riceve, ma perché il suo collegamento con il lavoro significa la possibilità di riprendere a lavorare immediatamente se se ne creano le condizioni di mercato e quindi di produzione. La sua attitudine non è quella di cercare un altro posto di lavoro, ma è quella piuttosto di robustire le proprie competenze, il proprio mestiere in quel posto di lavoro. No, ma d'accordo, infatti siamo rimasti molto perplessi anche noi ieri, lo raccontavamo in diretta, ma in una battuta, che abbiamo ancora un minuto, che quadro sta emergendo sulla tenuta degli strumenti del welfare da parte dei 20 paesi, quindi dei 19 suoi colleghi? Ma c'è una preoccupazione diffusa che prima di tutto è presente qui negli Stati Uniti. Oggi incontreremo il presidente Obama. La diffusa preoccupazione è che la ripresa possa essere senza occupazione. Si parla qui di jobless recovery, cioè di una ripresa senza posti di lavoro. Perché le caratteristiche di questa ripresa, la stessa innovazione tecnologica, possono comportare razionalizzazione dei modi di produrre sia beni ma anche servizi, riducendo il lavoro. Insieme invece abbiamo discusso di come garantire crescita con occupazione, cioè valorizzando quanto più il capitale umano, le persone, in tanti modi, anche facendo emergere lavori sommersi. Questo è un tema che interessa paesi industrializzati come paesi in via di sviluppo, e allo stesso tempo ovviamente investendo, dicevo, nelle conoscenze, nelle competenze delle persone, perché ci siano nuove competenze che corrispondono ai nuovi lavori, ai nuovi modi di produrre. Grazie, grazie per la disponibilità al ministro Maurizio Sacconi, ministro del welfare, che è in collegamento con noi da Washington, dove appunto si sta tenendo il vertice dei G20, dei ministri del welfare dei G20. Grazie, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Allora, adesso il GR, volete sapere della proposta? È una proposta parlamentare, obiettivamente ne parleremo ampiamente, di come portare la cassa integrazione da 12 a 24 mesi, proposta che va dal PD, tassa sui ricchi del 2%, per chi guadagna più di 200.000 euro, mi sembra che si sia ancora a una fase molto molto preliminare di dibattito parlamentare, comunque GR... Poi Grecia e Fiat, 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. E allora, gli altri temi di questa giornata economico-finanziaria che si chiamano... da un lato Grecia, dall'altro Fiat, del petrolio, o meglio della benzina e degli annunci fatti oggi dal sottosegretario allo sviluppo economico con delega all'energia Stefano Sagli, abbiamo già detto in apertura e comunque magari vi torneremo al via il prezzo settimanale e il raddoppio dei distributori self-service. Dicevamo della Grecia e allora siamo in collegamento con l'inviato del Sole 24 Ore ad Atene, Vittorio Darold. Vittorio, buonasera. Buonasera a voi. Allora Vittorio, che cosa sta succedendo? Mi rendo conto che, insomma, che tu non sia né Soros né uno di quelli che stanno speculando contro la Grecia, ma insomma è due giorni dopo una settimana di calma, dopo il piano europeo, è due giorni che continuano a aumentare i rendimenti delle obbligazioni greche, o meglio la differenza tra quanto rende un'obbligazione greca e un'obbligazione tedesca, il che non è una bella notizia perché vuol dire che la Grecia costa sempre di più farsi finanziare il suo debito rispetto a quanto non costi la Germania, che è lo stato di riferimento. Siamo arrivati al 5% di differenza, un'enormità, sì. E sono schizzati anche a record i premi assicurativi, chiamiamoli così, per cautelarsi dal rischio default Grecia. I credit default swap hanno preso altri 25 punti base a 488 punti, mentre il Wall Street Journal dice che addirittura, secondo il presidente della Bundesbank, Axel Weber, la Grecia potrebbe aver bisogno di 80 miliardi di euro per evitare il crack. Beh, dunque, innanzitutto, gli 80 miliardi si riferiscono a 3 anni. Quindi per ora diciamo che ne hanno stimati 45-30 dell'Unione Europea attraverso dei prestiti bilaterali e 15 del Fondo Monetario. Qual è il discorso della speculazione? In questo momento tutti stanno cercando di vendere i bond per costringere appunto i rendimenti a salire. E poi quando ci sarà e se ci sarà, perché il governo di Atene ancora non ha sciolto la riserva, ma oggi ha detto che ci sarà il piano per chiedere un aiuto, cioè le misure per chiedere un aiuto entro il 15 maggio, a quel punto, una volta che Atene avrà chiesto gli aiuti, i rendimenti dovranno immediatamente calare e i prezzi aumentare. Ed ecco dove la speculazione punta per guadagnare. Come se ne esce? Se ne esce con un piano di risanamento dei conti credibile e con il via libera da parte di tutti i paesi europei al piano appunto di finanziamento, come ha fatto oggi Parigi con Christine Lagarde, il ministro delle finanze francese, che molto polemicamente ha annunciato che la Francia entro il 3 maggio porterà in Parlamento questo piano supplementare alla finanziaria per dare il prestito, che ha detto non è un regalo ma è un prestito vantaggioso per la Francia, perché è al 5%, ben sopra quindi quanto costi alla Francia andare sul mercato, mentre la Germania ha detto che bisogna ancora aspettare. Ed è qui il vulnus, ed è qui che il mercato continua a speculare sulle indecisioni tedesche. In effetti fai bene a ricordare che i prestiti di vari paesi europei, tra cui anche quello italiano, saranno prestiti in cui, come potrebbe fare qualunque investitore, si guadagnerà anche, visto che il rendimento che offre la Grecia è un rendimento del 5%, c'è poca roba in giro che renda il 5% quanto a prestito, che non sia un investimento rischioso azionario. Si calcola che l'Italia possa guadagnare dal prestito che darà la Grecia 355 milioni di euro, quindi insomma, sempre. Esattamente. Ma domanda, e poi concludiamo, ma perché allora la Grecia non si dà una mossa a chiedere e a organizzare questo prestito, così evitiamo anche... La prima giornata di sciopero organizzato dal sindacato comunista, che è quello naturalmente più barricadero, anche se minoritario, e domani c'è quello appunto dei dipendenti pubblici, che tra tagli alla 13ª, 14ª indennità si vedranno appunto ridurre gli stipendi di un 20%. Ecco dove è il problema del governo socialista di Papandreou, quello di avere una stabilità da parte del governo, la sicurezza che la popolazione in qualche modo capisca il momento di crisi e quindi il piano possa andare avanti senza contrasti nella vita sociale del paese. Oggi il Pireo è stato bloccato, che come voi sapete è uno dei punti focali dell'economia. Certo. Però Vittorio, per concludere, c'è chi dice va bene il piano di emergenza, le 13esime, le 14esime tagliate o bloccate, ma insomma in Grecia esiste un nero, un'evasione fiscale da fare quasi impallidire l'Italia, che pure è una maestra in questo a livello mondiale. Non calcola dell'8% del PIL. 8% del PIL. Ecco, c'è anche un piano per combattere l'evasione nera, altrimenti anche lì si ripropone il vecchio tema che pagano sempre i soliti. Sfida. Cioè, la vera sfida è appunto quella di fare una riforma fiscale. Tenete conto che il governo ha anche approvato uno scudo fiscale esattamente sulla falsariga di quello italiano di Tremonti, con cui spera appunto di convincere i greci, che hanno portato soldi e ne hanno portati parecchi anche negli ultimi due mesi fuori, appunto si calcola sui 10 miliardi, che guarda caso è esattamente la cifra che basterebbe ad Atene per poter salvarsi, perché il 19 di maggio, questa è la data critica, entro il 19 di maggio Atene deve rifondere bond per 10 miliardi. Rifinanziarsi per 10 miliardi, certo. Sarà un caso, ma i greci dicono riferite agli italiani una faccia, una razza. Grazie Vittorio D'Aroldi, inviato del Sole 24 Ore ad Atene. Il traffico e poi la Fiat, la conferma arrivata in diretta un'ora fa di Sergio Marchionne, che entro sei mesi la Fiat si dividerà in due parti, Fiat Auto e Chrysler da una parte, da un lato, e il resto della Fiat dall'altro. 349-238-6666 per gli sms di Fiat. Parliamo dopo il traffico. Ultima parte di Focus Economia, con voi come sempre Sebastiano Barisoni. Andrea Malan, inviato dal Sole 24 Ore a Torino, dove in mattinata Sergio Marchionne ha presentato i dati del primo trimestre 2010 di Fiat. Il giorno dopo l'annuncio dell'uscita come presidente di Luca Codazzo di Montezemolo, e poi nel pomeriggio ha presentato i dati agli analisti. Prima di sentire Marchionne, vorrei, intanto buonasera Andrea. Buonasera a tutti. Vorrei che tu rispondessi a due domande che continuano giustamente, a mio avviso, a porci gli ascoltatori al 349-238-6666. Quali sono le altre attività della Fiat a parte l'auto, perché continuiamo a parlare di questo spin-off, di questa separazione che Marchionne ha confermato arriverà entro sei mesi, da una parte Chrysler e Fiat e dall'altra il resto di Fiat. B, perché il titolo sale sull'ipotesi di spin-off, cioè qual è la parte che ne verrà più valorizzata? Dunque, sinteticamente, con Fiat Auto rimarranno anche i componenti e i motori per auto. Lo scorporo nella cosiddetta Fiat Industrial riguarderà i camion di Iveco e i trattori e macchine movimento terra di CNH, che tra l'altro è già quotata per conto suo negli Stati Uniti. Lo scorporo, la scissione, quella che tecnicamente è una scissione, cioè ogni azionista Fiat avrà un'azione della nuova società e un'azione vecchia, riceverà parallelamente. Dovrebbe creare valore perché i multipli a cui il mercato valuta normalmente l'auto sono più bassi di quelli dei veicoli industriali e in genere dei beni capitali, per cui tendenzialmente i beni capitali tendono ad essere sottovalutati. Quindi la somma delle due parti, ovviamente, perché ogni azionista comunque invece di avere un'azione ne avrà due, ma il valore della somma delle due azioni dovrebbe essere superiore, soprattutto diciamo dalla parte appunto di Iveco e CNH. Il debito di Fiat dove finisce? Cioè chi se lo accolla? Il debito di Fiat rimane in Fiat S.p.A., quindi con l'auto. Naturalmente la Fiat S.p.A. continuerà temporaneamente a finanziare l'altra società. Marchionne ha detto che da domani mattina naturalmente si siederà al tavolo con le banche creditrici in modo da arrivare a una ripartizione equilibrata dell'indebitamento e in generale dei finanziamenti. Diciamo che per ora le cose rimangono così. Uno dei motivi per cui lo scorporo verrà fatto in questo modo è che se si fosse proceduto in altro modo ci sarebbe stato probabilmente la violazione di varie clausole contrattuali con gli obbligazionisti, così invece appunto il debito rimane tutto nella società vecchia, quindi non ci sono violazioni contrattuali, ma è chiaro che andrà redistribuito e questo sarà oggetto di un negoziato. Tendenzialmente comunque un altro vantaggio tra virgolette dei capital business, quindi di Iveco e CNH, che hanno un fabbisogno di capitale inferiore a quello del business dell'auto. Ecco, sui valori di questo concambio, non so se sia la parola corretta, ma insomma di queste azioni di Fiat nuova e azioni di Fiat vecchia che gli azionisti della Fiat avranno, non si sa ancora molto? Beh, in realtà non c'è un concambio, perché appunto ogni azionista di Fiat S.P.A. avrà un'azione della Fiat S.P.A. senza i nuovi business e un'azione dei nuovi business, quindi il valore dipenderà da come il mercato lo valuterà, in effetti, dal giorno successivo alla scissione. Sì, però a giudicare da quello che vediamo, il mercato scommette che la somma delle due parti sarà superiore alla parte stessa, mettiamola così, a quella che attualmente, visto che il titolo oggi va a 10,60 euro più 1,7, Exor soffre un po', o meglio realizza un po', meno 0,3% a 13,90 euro. Ultima domanda, il piano illustrato oggi. Insomma, Marchionne ha detto, attenzione, il 2010 sarà un anno con senza incentivi auto, con un 30% di calo delle vendite in Italia, però ha confermato tutti gli obiettivi per il 2010 e ha spiegato che i ricavi sono saliti del 15% quasi, per l'auto più 20%, e che il risultato per quello che riguarda Fiat è vicino, il risultato netto è vicino al pareggio, rispetto a una perdita di 411 milioni dei primi tre mesi del 2009. Un giudizio complessivo. Beh, il piano, cerco di sintetizzarlo, nel 2014 il gruppo, sommando ancora le due parti, nonostante la scissione, dovrebbe arrivare a 93 miliardi di euro di fatturato. Il piano è un po' meno ambizioso dal punto di vista dei margini rispetto a quanto non fosse quello 2006-2010, è particolarmente ambizioso invece per quanto riguarda Fiat Auto, che dovrebbe arrivare a produrre 3,8 milioni di auto contro i circa 2,2 prodotti l'anno scorso. Tra l'altro c'è una forte scommessa sull'Italia, questo è importante anche in proiezione del prossimo incontro con i sindacati, cioè prevede nel 2014 di produrre in Italia 1,65 milioni di vetture, compresi veicoli commerciali, contro il 1.150.000 che si riteneva fino a qualche giorno fa, e che Marchionne, ricordiamo che solo per l'auto aveva promesso finora al ministro Scajola 900.000 auto, si arriva invece a 1.400.000, quindi mezzo milione di auto in più, con una forte scommessa legata in parte all'idea di esportare una parte di questi veicoli verso gli Stati Uniti. E quindi non solo una produzione negli Stati Uniti, ma anche una parte che viene prodotta qui in Italia e poi va verso gli Stati Uniti. Grazie Andrea Malan, che so che ci deve lasciare perché appunto sta per iniziare un'altra conferenza stampa e altri di Sergio Marchionne. Noi invece vi facciamo ascoltare in inglese chiaramente quello che ha detto Sergio Marchionne agli analisti poco fa, circa un'ora e mezza fa, per quello che riguarda soprattutto la parte dei dati, quindi liquidità di cassa e indebitamento. Liquidity remains strong at 11.2 billion euros as I mentioned earlier, and the decrease over the year-end figure of 12.4 billion E questo è il passaggio in cui Sergio Marchionne ricorda come la liquidità sia rimasta forte, 11,2 miliardi di euro, e il calo in calo dai 12 miliardi e mezzo del 2009 dovuto totalmente al rimborso di un prestito obbligazionario di 1 miliardo di euro. In generale, ha detto Marchionne, confermiamo tutti gli obiettivi del 2010 con un utile in gestione ordinaria superiore al 1.100.000.000 di euro e l'indebitamento netto industriale a 5 miliardi di euro. Ha detto anche Marchionne che il business delle automobili continua a contribuire per oltre il 50% ai risultati di Fiat, ci sarà una contrazione del 15% del mercato in Europa e in Italia appunto senza gli incentivi le vendite scenderanno del 30%. In most markets have already come to an end. And looking at the full year, we expect the car market will experience a contraction over 2009 levels of around 15%. Without support from eco incentives, sales in Italy over the next three quarters are expected to drop around 30% over 2009. Così appunto Sergio Marchionne poco fa sui conti, la liquidità e le previsioni di vendita del gruppo Fiat. Veniamo al piano industriale in senso stretto. Perché? Perché appunto, come già anticipava Andrea Malan, Marchionne ha annunciato 10 nuovi modelli e 6 restyling. 10 nuovi modelli e serie, una nuova City Car presentata nel 2013, un modello nella fascia B nel 2012, poi 2013 restyling di Chrome, multiple Ulisse e poi per Alfa Romeo 7 nuovi modelli e 2 restyling. 6 milioni le auto vendute nel 2014 tra Fiat e Chrysler, venderanno assieme 6 milioni di auto. E tra l'altro, per quello che ricorda, come ricordava Andrea Malan, per quello che riguarda l'Italia, Marchionne con il progetto Fabbrica Italia ha detto che il gruppo Fiat prevede di raddoppiare la produzione di auto in Italia, portandola dalle attuali 650.000 unità a 1.400.000 unità di auto prodotte in Italia nel 2014, e ha anche confermato che le radici di Fiat sono italiane e resteranno italiane. Sentiamo questo passaggio. We assume the demand will take at least 4 years to return to normal levels, nearly equal to 2007. For passenger cars and light commercial vehicles, between new models and refreshes of existing models, we're talking about a total of 51 products over a 5-year period. E appunto Sergio Marchionne ha detto che ci vorranno 4 anni perché la domanda mondiale di auto torni ai livelli del 2007, 51 comunque veicoli tra veicoli commerciali e auto, 51 nuovi modelli nel giro di 5 anni, 2/3 prodotti da Fiat, 1/3 prodotto da Chrysler, e nel 2014 si arriverà al livello massimo di produzione degli impianti Fiat anche in Italia. Per Mirafiori l'aumento di produzione sarà del 24% e invece per Cassino i volumi si quadruplicheranno rispetto al 2009, quando l'impianto ha lavorato sotto la capacità produttiva. During 2009, the Cassino plant operated well below capacity. By 2014, production volumes will nearly quadruple. For the Termini Imerese plant, the plan is announced is to stop production by the end of next year. E nell'ultimo passaggio avete sentito, dice, nell'impianto di Termini Imerese la produzione cesserà entro la fine del prossimo anno. E poi un avvertimento appena battuto dall'agenzia ai sindacati: bisogna accettare il piano di Fiat su Termini Imerese perché è già pronto un piano B che non è molto bello. Questa era l'ultima notizia di questa puntata molto densa, devo dire, di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata a voi in ascolto. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.